Il terzo anello, ad alta voce, I mandarini, di Simone de Beauvoir. Traduzione di Franco Lucentini. Henri e Nadine salirono la scala ed entrarono nella camera di Henri. Nadine si asciugò gli occhi e si soffiò rumorosamente il naso. «Mi detesti, non è vero?» «Non dire sciocchezze», disse Henri. «Sai cosa penso?» aggiunse. «Sei tu che detesti un po' tutti. Per gli altri non mi importa, ma non devi detestare me. Perché io ti voglio bene. Mettitelo in testa». «Ma no, non mi vuoi bene», disse Nadine. «E hai ragione, io non sono una da volerle bene». «Siediti qui», disse Henri. Le sedette accanto e le prese una mano. «Credi veramente che non ti ami? Sul serio?» Nadine alzò le spalle. «Perché m'ameresti? Che cosa ti do io? Non sono neppure carina». «Oh, finiscila con questi complessi idioti», disse Henri. «Mi piaci come sei, e quel che mi dai, sei tu. È tutto quel che ti chiedo, dal momento che ti amo». Nadine lo guardò con un'aria desolata. «Vorrei crederti. Vorrei... Prova. No, mi conosco troppo. Sono una bestia», disse Nadine, «e non faccio che cose bestiali». «Ma no, ieri sera eri in collera e si capisce. Non hai previsto quel che sarebbe accaduto. Finiscila di tormentarti». «Non è colpa mia», disse Nadine sospirando. «Sono diffidente». «Non lo sei stata sempre», disse Henri. «Con Diego non lo eri». Nadine si irrigidì. «Era diverso». «Perché?» «Diego era mio». «Non più di quanto lo sia io», disse Henri vivamente. «La sola differenza è che lui era un bambino, ma sarebbe cresciuto. E se tu non avessi deciso a priori che ogni adulto è un giudice e dunque un nemico, la mia età non ti darebbe fastidio». «Non dimenticherò mai Diego», disse Nadine. «Non dimenticarlo, ma non servirti dei tuoi ricordi contro di me, perché è questo che fai. Per una quantità di ragioni ti difendi dal presente rifugiandoti nel passato e in nome del passato ti vuoi superiore a tutto quel che continua a succederti». Nadine lo guardò con aria un po' esitante. «È vero, tengo al mio passato». «Ti capisco bene», disse Henri, «ma capisco anche questo. Non è perché hai dei ricordi molto forti che metti della cattiva volontà a vivere. È il contrario. Utilizzi i tuoi ricordi per giustificarti». Nadine restò un po' in silenzio, mordendosi il labbro pensierosamente. «Perché metterei questa cattiva volontà?» «Per risentimento, per diffidenza. È un circolo vizioso», disse Henri. «Dubiti del mio amore, me ne vuoi, e per punirmi diffidi di me». «Ma rifletti», aggiunse con voce pressante. «Se ti amo, merito la tua fiducia, e tu sei ingiusta a non concedermela». Nadine alzò le spalle con aria desolata. «Se è un circolo vizioso, non potrò uscirne». «Potrai», disse Henri. «Se vuoi, potrai». La strinse a sé. «Abbi fiducia in me, anche senza essere sicura che la merito. L'idea d'essere ingannata ti fa orrore, ma è ancor meglio essere ingannati che essere ingiusti. E vedrai», aggiunse, «questa fiducia la meriterò». «Mi trovi ingiusta con te?» disse Nadine. «Sì. Sei ingiusta quando mi fai una colpa di non essere Diego, e ingiusta quando mi consideri come un giudice, mentre sono soltanto un uomo che t'ama». Nadine gli gettò le braccia al collo. «Ti chiedo perdono», disse. «Non ho niente da perdonarti», disse Henri. «Vieni», aggiunse. «Adesso devi cercare di dormire. Riparleremo di tutto domani». L'aiutò a mettersi a letto e le rimboccò le coperte. Tornò in camera sua. Mai ancora aveva parlato così francamente con Nadine e gli sembrava che qualcosa in lei avesse ceduto. Bisognava perseverare. Sospirò. Ma poi? Per renderla felice, avrebbe dovuto essere felice lui stesso. E la felicità, questa mattina, non sapeva davvero più cosa significasse. Due giorni dopo i giornali non avevano ancora segnalato la scomparsa di Césénac. Henri credeva di sentire intorno al padiglione un odore di bruciato. L'immagine di quel viso nero, di quel ventre bruciato, non si cancellava. Ma quest'incubo era già coperto da un'altra angoscia. I tre erano in rotta con Mosca. La tensione tra Oriente e Occidente era tale che la guerra pareva davvero imminente. Anche Dubreuil, quando Henri e Nadine l'accompagnarono alla Gare de Lyon, era assai cupo, come tutti gli altri. Henri rimase a guardarlo, da lontano, mentre nell'atrio della stazione stringeva la mano agli altri del comizio. Certo, l'idea di andare proprio oggi a difendere la pace a colpi di discorsi doveva sembrargli ridicola. Eppure, quando lo vide dirigersi con gli altri verso il treno, Henri provò una specie di rimpianto. Aveva l'impressione d'essere escluso. «Cosa facciamo?» chiese Nadine. «Andiamo intanto a prendere il tuo biglietto e poi il trittico. Sicché partiamo lo stesso?» «Sì», disse Henri. «Se vediamo che la situazione s'aggrava, rimanderemo la partenza. Ma forse ci sarà una distensione. Abbiamo fissato una data. Per il momento atteniamoci a quella». Sbrigarono varie commissioni, comprarono dischi, passarono a Vigilance e poi a L'Enclume a trovare la Chaume. Il pranzo fu tetro e Anne salì subito dopo in camera sua. Henri restò nello studio con Nadine, che stava sistemando i dischi e la corrispondenza presa a Vigilance. Henri le passò i ritagli di stampa e spiegò una lettera. La lettera d'un giovane pieno d'ammirazione per lui. C'erano molte altre lettere ammirative. Di solito gli facevano piacere. Ma questa sera, senza che sapesse bene il perché, l'irritava pensare che certe persone lo stimavano un bel campione d'umanità. L'orologio batté le 10. Dubreuil stava parlando contro la guerra. Henri pensò d'un tratto che avrebbe voluto essere al posto suo. S'era detto spesso: «La guerra è come la morte. Prepararcisi non serve a niente». Ma quando un aereo cade a vite, è meglio essere il pilota che cerca di raddrizzarlo piuttosto che un passeggero terrorizzato. Far qualche cosa, non fosse altro che parlare, era meglio che restare seduto nel proprio angolo con quel peso oscuro sul cuore. Non si impedisce una guerra con le sole parole, ma la parola non pretende necessariamente di cambiare la storia, è anche una certa maniera di viverla. Nel silenzio di quello studio, abbandonato all'intimità dei propri incubi, Henri sentiva di viverla male. «Parlano molto bene dell'ultimo numero», disse Nadine, «e specialmente della tua novella». «Sì, la rivista va bene», disse Henri con indifferenza. «Il suo solo torto è d'essere una rivista», disse Nadine. «Evidentemente per gli avvenimenti d'attualità sarebbe tutta un'altra cosa se avessimo un settimanale». «E perché tuo padre non si decide?» disse Henri. «Muore dalla voglia. Quelli del suo movimento ne sarebbero incantati, e anche i comunisti vedono il progetto di buonissimo occhio. Che aspetta, allora?» «Lo sai bene», disse Nadine. «Non vuole occuparsene senza di te». «Penso che finirà per decidersi lo stesso», disse Henri. «Tutti l'incoraggiano». Nadine lo guardò negli occhi. «Se non avessimo deciso di andare in Italia, ti sarebbe piaciuto occupartene?» «Ma partiamo appunto per star lontani da questo genere di occupazioni», disse Henri. «Sei davvero sicuro, almeno, di aver voglia di partire?» «Perché mi chiedi questo?» «Così, un'impressione. Saremmo stupidi a partire soltanto per non cambiare i nostri piani», disse Nadine con voce posata. «Hai sentito cosa diceva tuo padre l'altro giorno? Se restassi, tutto ricomincerebbe come una volta. Quest'anno ho preso tutto il mio tempo e sono stato molto felice», disse Henri. «Vado in Italia per continuare così». Nadine lo guardò incerta. «Se credi davvero che sarai felice, laggiù...» Henri non rispose. «Felice. In verità questa parola non aveva più senso. Non si arriva mai a possedere il mondo, ma neppure a difendersi da lui. Ci si è dentro, ecco tutto. A Porto Venere, come a Parigi, tutta la terra gli sarebbe stata intorno. Presente, con le sue miserie, con i suoi delitti, con le sue ingiustizie. Avrebbe letto i giornali, ascoltato la radio, ricevuto lettere. Tutto il vantaggio si sarebbe ridotto a questo, a potersi dire: non posso farci niente». Bruscamente qualcosa gli scoppiò nel petto. No, la solitudine che lo soffocava questa sera, quest'impotenza, muta. Non era questo che voleva. No, non avrebbe accettato di dirsi per sempre: tutto accade senza di me. Nadine aveva visto chiaro. Neppure per un momento lui aveva scelto davvero quest'esilio. Si rese conto improvvisamente che già da tempo quell'idea gli faceva orrore. «Tu saresti contenta Se restassimo qui, chiese. Sarò contenta dovunque se sarai contento anche tu, disse Nadine con slancio. Ma avevi voglia di vivere al sole in un bel posto? Sì, esitò. Sai, quelli che sognano il paradiso, quando si trovano con le spalle al muro, non hanno più tanta fretta di andarci. Se non partiva, sapeva bene quel che l'aspettava. Questa volta era avvisato. Almeno eviterò certe trappole, si disse, e pensò con rassegnazione. Cadrò in altre. Vuoi che sentiamo un po' di musica? Disse. Non abbiamo bisogno di decidere niente questa sera. Ma sapeva d'aver già deciso. Sapevo già che sarei arrivata a questo punto. Quando presi quella fiala nella borsetta di Paul, mi proponevo di gettarla. E invece la nascosi in una scatola di guanti. Ora, basterebbe che salissi in camera mia. Basterebbe un gesto e avrei finito. Questo pensiero mi rassicura. Poggio la guancia contro il calore dell'erba. Dico a bassa voce, voglio morire. Il nodo che ho in gola si scioglie. Mi sento improvvisamente calmissima. Non è per via di Lewis. Già a Chicago avevo cominciato a guarire. Guarirò, non potrò impedirmelo. Non è per via degli uomini che vengono assassinati un po' dappertutto, né per via della guerra che ci minaccia. No, niente di tutto questo mi tocca. Se le cose mi toccassero, mi sentirei viva. La vita non mi parrebbe inutile. Invece, ecco, la morte mi gira intorno. Come quel giorno a 15 anni, quando gridai di paura. Ma non ho più 15 anni. Non ho più la forza di fuggire. Per non aspettare qualche giorno, il condannato a morte si impicca nella propria cella. E io dovrei pazientare per anni? Perché? Sono stanca. La morte sembra meno terribile quando si è stanchi. Se il desiderio che ne ho adesso può farmi morire, profittiamone. Sono già 15 giorni che dura. Dal momento del mio arrivo a Parigi. Robert m'aspettava alla Gare des Invalides. Non m'ha vista subito. Stava andando su e giù per il marciapiede a piccoli passi d'uomo vecchio. È vecchio, ho pensato in un lampo. Ma sorriso. Il suo sguardo era sempre così giovane. Ma il suo viso aveva cominciato a disfarsi. Continuerà a disfarsi fino al giorno in cui crollerà. Da quel momento non ho più smesso di pensare. Ne ha per 10 o 15 anni. Forse per 20. Sono corti 20 anni. E poi morirà. Morirà prima di me. So quel che mi direbbe Robert. Me l'ha già detto. Non sono un morto in aspettativa, sono un vivente. M'aveva convinta. Ma allora parlava a una donna viva. E la vita è la verità dei vivi. Io giocavo con l'idea della morte. Con l'idea soltanto. Ero ancora di questo mondo. Oggi è diverso. Non gioco più. Mi sollevo su un gomito, guardo la casa, il tiglio, la culla in cui dorme Maria. È un giorno come gli altri, e in apparenza il cielo è azzurro. Ma che deserto! tutto tace. Questo silenzio, forse, è soltanto il silenzio del mio cuore. Non c'è più amore in me. Per nessuno. Per niente. Sono salita in camera mia. Ho aperto la scatola. Ho preso la fiala. La morte che è in me. Ecco, la tengo in mano. Appena una piccola fiala brunastra. Ed improvviso, ecco, non mi minaccia più. Dipende da me. Mi sono stesa sul letto stringendo la fiala. Ho chiuso gli occhi. Dal giardino sono saliti rumori. Passi. Voci, ma non disturbavano il silenzio. Vedevo ed ero cieca, sentivo ed ero sorda. Nadine ha detto con voce irritata: la mamma non avrebbe dovuto lasciar sola Maria. Le parole son passate sopra la mia testa senza sfiorarmi. Le loro parole non potevano più raggiungermi. D'un tratto c'è stata in me una debole eco, un piccolo rumore come di tarlo. È accaduto qualcosa? Maria sola sul prato. Un gatto poteva graffiarla, un cane morderla. No, in giardino si rideva. Ma il silenzio non si è richiuso. L'eco ha ripetuto: non avrei dovuto. E ho immaginato la voce di Nadine, enorme e indignata: non avresti dovuto, non avevi il diritto. Il sangue m'è salito al viso e qualcosa di vivo m'ha bruciato il cuore. Non ho il diritto. Il bruciore m'ha svegliata. Ho sollevato la testa, ho guardato i muri con abitudine. Tenevo la fiala in mano. La camera era vuota, ma non ero più sola. Entreranno in camera, io non vedrò niente, ma loro mi vedranno. Come non ci ho pensato? Non posso infliggergli il mio cadavere e tutto quel che seguirà nei loro cuori. Robert chino su questo letto. Lewis, nella casa di Parker, con parole che gli ballano davanti agli occhi. I singhiozzi furiosi di Nadine. Non posso. Mi sono alzata, ho fatto qualche passo, son caduta a sedere davanti al mio tavolo da toilette. È strano. Io morirò sola, ma la mia morte saranno gli altri a viverla. Son rimasta a lungo davanti allo specchio, guardando il mio viso di sopravvissuta. Le labbra sarebbero diventate azzurre, le narici strette, ma non per me, per loro. La mia morte non m'appartiene. La fiala è ancora lì, a portata di mano, e la morte è sempre presente. Ma più presenti sono i vivi, e io non potrò fuggirli, fin tanto almeno che vivrà Robert. Ripongo la fiala. Non scendi? Nadine ha bussato, è entrata, è in piedi accanto a me. Mi sento impallidire. Sarebbe entrata, ma avrebbe vista sul letto, il corpo convulso, che orrore! Cos'hai? Sei malata? Chiede con voce inquieta. Avevo mal di testa, son salita a prendere un'aspirina. Sto molto meglio. Nadine mi guarda con aria sospettosa, ma tutto quel che sospetta è che io abbia dispiaceri di cuore. Stai meglio davvero? L'aspirina m'ha fatto bene. M'alzo per sfuggire a questo sguardo inquisitore. Scendiamo. Henri m'ha teso un bicchiere di whisky. Stava guardando delle carte con Robert, che si è messo a spiegargli qualcosa con aria gioiosa. Mi son chiesta, sorpresa, come ho potuto essere così stordita? Come non ho pensato ai rimorsi senza fine che gli preparavo? No, non è stata storditaggine. Per un momento ero veramente passata dall'altra parte, là dove più niente conta, dove tutto è uguale a niente. «Mi senti?» ha detto Robert, ma sorriso. «Dove sei?» «Qui», ho detto. «Sono qui, tra questi che vivono e mi parlano. Sono viva». Le parole m'entrano nelle orecchie e a poco prendono un senso. Ecco il bilancio probabile del settimanale e il piano d'impaginazione che propone Henri. Non avrei una qualche idea per il titolo. Nessuno di quelli a cui ho pensato fin qui si può dire che convenga. Cerco un titolo. Mi dico che poiché sono stati abbastanza forti da strapparmi alla morte, forse sapranno aiutarmi a vivere di nuovo. Sapranno, certo. O s'affonda nell'indifferenza, o la terra si ripopola. Io non sono affondata. Poiché il cuore continua a battermi, bisognerà bene che batta per qualcosa, per qualcuno. Poiché non sono sorda, mi sentirò di nuovo chiamare. Chissà. Forse un giorno sarò di nuovo felice. Chissà. Thank you. Io sono Renzo Paris e continuo il commento sui mandarini. Come è noto, al centro del romanzo I mandarini c'è il legame di amicizia intellettuale e di vita tra due uomini estremamente impegnati nella costruzione di un mondo nuovo, subito dopo la Seconda Guerra Mondiale. Accanto a loro, Anne, la figura femminile, che a un certo punto, come l'autrice, ha una relazione con lo scrittore americano Holmgren durante un viaggio negli Stati Uniti. Il mondo esistenzialista dei giornali, delle riviste, dei locali parigini più famosi sfila nel romanzo in uno stile tra giornalistico e rievocativo, che assomiglia a quello che Sartre aveva presentato nella sua trilogia Le Chemin de la Liberté. Simon, come del resto un'altra scrittrice legata alla memoria come Elsa Triolet, ha il gusto del dialogo più che della descrizione, che si esaurisce spesso nel dettaglio epocale. Rileggere i mandarini dunque fa l'effetto di rientrare in un'epoca della nostra adolescenza, quando anche per noi l'impegno voleva dire schierarsi, avere un'opinione su tutto quello che accadeva nel mondo, spesso però trascurando di guardare al nostro privato con lo stesso ardore. Simone in questo risulta più sincera di Sartre, proprio per quella sua cocciuta volontà di esibire la prova delle sue idee. In ciò molto femminile, al contrario di Sartre, che puntava quasi tutto sulle idee, anche nella narrativa, con il risultato che dopo la sua morte fu contestato. Anne si ritrova tutta in quella paralisi che la colpisce nel suo viaggio americano, nell'angoscia autodistruttiva che l'afferra alla gola, in quelle sue pulsioni suicide. I due protagonisti, invece, l'uno più realista e pragmatico, Sartre, l'altro più inquieto e insicuro, Camus, finiscono per riconciliarsi. Anne invece è sempre preda dell'assoluto. Come da ragazza, quando decise di seguire i corsi di filosofia alla Sorbona per non diventare una fattrice, una casalinga. Com'è lontana l'epoca in cui lo scrittore doveva essere anche filosofo, intellettuale, politico, il sale della terra, insomma. Quegli uomini si muovevano come se tutto il peso del mondo fosse poggiato sulle loro spalle. Scrivevano da padroni, pur sognando una rivoluzione che non assomigliasse né a quella sovietica né a quella maoista. I Sartre, i Camus, le de Beauvoir erano sempre pronti fortinianamente a dire la loro sul più piccolo stormir di foglia, ad arrabbiarsi per questo, per poi magari tornare amici subito dopo. Lo consideravano impegno. Venne poi l'École du Regard, vennero gli autori del Nouveau Roman a seppellire quell'epoca con i Barthes, i Butor, fino ai Solers, seppellendo insieme però e definitivamente Parigi come faro creativo del mondo. Valentina Carnelutti ha letto I mandarini di Simone de Beauvoir, postfazione di Renzo Paris, traduzione di Franco Lucentini per Edizioni Einaudi, regia di Anna Antonelli, riduzione di Chiara Nicoletti, a cura di Fabiana Carobolante, il terzo anello @rai.it.